come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Bene, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, 800 24 00 24 è il numero verde per chiamarci in diretta, SMS al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Iniziamo subito con i titoli del TG2 delle 18:30. Arrivano a Gaza, devastata dalla guerra, i primi aiuti dall'Italia, 4.000 case distrutte e 500.000 senza acqua. Israele accelera il ritiro via tutte le truppe entro domani. Obama, domani l'insediamento. Tutto il popolo americano dice unito nel nome di Martin Luther King. Anche il pilota eroe dell'aereo ammarato è invitato alla festa. Finisce fuori strada nelle Marche, precipita in una scarpata un pullman di linea a carico di studenti, una ventina è feriti, nessuno in pericolo di vita, la corsa disperata dei genitori. Torna a sfilare a Milano Nina Moric dopo l'assunzione di sonniferi che l'ha portata in ospedale, colleziona una nuova denuncia, intanto Fabrizio Corona sorpreso ancora alla guida senza patente. Falsi incidenti, colpi di frusta inventati, una macchina della verità contro le frodi alle assicurazioni creata all'Università di Padova, simulatori smascherati almeno nel 90% dei casi. Questi erano i titoli del TG2. Mentre apprendiamo che finalmente sta per concludersi la telenovela di Riccardo Villari, che potrebbe dimettersi dall'Ansia, ha annunciato che presenterà le sue dimissioni all'ordine del giorno della prossima riunione della Commissione di Vigilanza Rai, e così, questo è il mio commento, i partiti potranno dare il via alle loro alla ristrutturazione, chiamiamolo così, alla rivoluzione, all'ennesimo cambio di dirigenze, poltrone alla Rai. Domani la cerimonia di insediamento del presidente Obama a Washington sarà la più costosa di tutti i tempi, 150 milioni di dollari, quattro volte quella di Bush del 2005 che costò 42 milioni di dollari e cinque volte i 33 milioni di Clinton del 93, treni storici, balli, cene, concerti e bagni, 2 milioni di turisti. E Bush, per stanziare i soldi, li ha sottratti alla protezione civile. Sentiamo il TG di Studio Aperto. Milano, allarme baby cocaina, 16.000 ragazzini che la consumano, 6 al giorno finiscono in ospedale. La drammatica testimonianza di Mario, lui ha cominciato a 17 anni, ti senti un leone, ti rovina la vita. Mentre l'insegnante è fuori dall'aula, tentano di violentare una compagna dodicenne. Denunciati ai carabinieri dell'Aquila, i quattro studenti sono di nuovo nella stessa classe della vittima. Rapporto shock, un ragazzo su quattro ha subito atti di bullismo. Cristi, nel rumeno disoccupato, ha perso moglie e figlioletto di 3 anni. Nel rogo, alle porte di Roma, erano in Italia per trascorrere insieme il Natale. Ora è stato assunto da un imprenditore e dice: resteranno sempre nel mio cuore. L'era Obama al via, domani il nuovo presidente giurerà sulla Bibbia di Lincoln, ma la vigilia la trascorre come in bianchino per i servizi sociali. Dopo un'incoronazione rock con l'amico Bono degli U2, ora l'America si aspetta miracoli. Per l'ufficio era malata da oltre 7 mesi, indagata per falso e truffa, una postina di Trieste che nel frattempo aveva partecipato a 3 gare di culturismo ed è arrivata terza ai campionati italiani. Gratta e vince 2 volte, il super premio e la commessa onesta, è successo. Bene, questi erano i titoli di Studio Aperto, vi ripeto il numero magico per chiamarci in diretta, 800 24 00 24. Direi che il frammento audio del giorno potrebbe essere questo, lo abbiamo preso dalla trasmissione di ieri di Fabio Fazio, era ospite il ministro Tremonti. A proposito, tutte le grida del centrodestra sugli ospiti di Fazio, chiaramente oggi e ieri non si sono sentite perché era ospite un esponente del centrodestra, chiusa parentesi, Tremonti su Alitalia, perché dice: l'offerta di Air France non c'è mai stata e comunque, anche se ci fosse stata, avremmo speso comunque lo stesso. La vicenda all'Italia, della quale tanto si è detto, dal punto di vista dei conti, lei è soddisfatto o poteva andare, era meglio l'offerta del, diciamo, del Air France col precedente governo? Arazzo, Air France non c'è mai stata, se ci fosse stata costava uguale, quindi sono tutte balle. Tutte balle, dice lei, sì, bene. Costava uguale. Non lo so, sa, 3 miliardi in più in meno? No. Cioè Air France c'è stata, ha fatto l'offerta o no? L'ha ritirata? Non l'ha fatta, quindi stiamo parlando di un'invenzione. Secondo, come ha fatto l'offerta? Costava uguale. Costava uguale, questo secondo, anzi contro tutte le analisi che abbiamo letto in questi giorni. Ancora Tremonti, e un altro frammento audio che potrebbe essere quello del giorno è sulla social card, oppure la sola card, come è stata ribattezzata da qualcuno, in particolare da Blob. Tremonti spiega che sono malfunzionamenti naturali in un'operazione di questo tipo. L'ultima è quella pubblicata, come sapete, questa mattina da Repubblica, in cui si evidenzia come la distribuzione sia fortemente diseguale: al nord molte meno social card, al sud invece molte di più. Tremonti. La carta acquisti e non i soldi diretti, come negli altri paesi, carte acquisti, perché ci puoi mettere sopra lo sconto dei commercianti e altri servizi. Diventa una base su cui puoi accedere a un po', noi speriamo, tante altre cose. Secondo, in Italia c'è un meccanismo, un indicatore di bisogno, di difficoltà, che si chiama ISEE, ed è stato inventato negli anni 90 e applicato da tutti quelli che ne hanno bisogno. Magari lei non sa cos'è, ma se va in giro a uno, quelli che ce ne hanno bisogno sanno cos'è. L'ISEE era la base da cui dovevamo partire anche noi, non potevamo inventare una roba diversa. Quella c'era, funziona. Non c'è una banca dati e quindi abbiamo dovuto andare un po' per approssimazioni. Se ci fosse stata una banca dati, prendevamo il disco e lo mettevamo in automatico. È successo che in molti casi funziona perfettamente, la maggioranza, più del 70%. In altri casi l'indicazione che ci abbiamo noi è: può avere diritto, ma devi verificare se ha diritto. In molti casi si è creato un po' l'equivoco di persone che pensavano di avere diritto, ma che in base all'ISEE non ce l'avevano. Questo Tremonti, 800 24 00 24, 17 anni fa, la morte di Eluana Englaro. Ieri c'è stata una fiaccolata a Lecco a favore di Beppino Englaro e della sua battaglia. Devo dire che è molto facile in questo caso mettersi dalla parte di Beppino Englaro 17 anni dopo l'incidente della figlia, che è stato vegetativo permanente, e soprattutto dopo le recentissime polemiche e l'iniziativa della magistratura contro la direttiva del ministro Sacconi. Sentiamo la fiaccolata di Lecco. Erano le 3:30 di notte quando Eluana Englaro, che allora aveva 21 anni, uscì da una festa e con la macchina del padre si schiantò contro un albero. Sono passati 17 anni. Da allora Eluana si trova in stato vegetativo permanente. Alla fiaccolata organizzata per il terzo anno consecutivo a Lecco hanno partecipato centinaia di persone. C'era Beppino Englaro, al quale sono state consegnate 17 rose, un dono simbolico per la figlia che lui non ha alcuna intenzione di tradire. È un accordo tacito di sangue con la ragazza, tutto lì. È semplicemente questo, non possiamo non farlo. Non si può tradire la propria creatura, non ce lo sarebbero mai perdonati. Anniversario difficile, segnato dalle polemiche dopo che la clinica privata di Udine si è tirata indietro e non intende più accompagnare la ragazza verso la morte, temendo ritorsioni dal governo. Decisione alla quale è seguita l'iscrizione nel registro degli indagati per violenza privata del ministro Sacconi, denunciato dai radicali che oggi hanno partecipato alla fiaccolata. C'è qualcuno che si oppone, una minoranza? Come possiamo definire questi atti e questo comportamento di una parte della politica? Guardi, devono imparare a aver rispetto delle altre posizioni. Alle 18:44 vi faccio ascoltare due opinioni sul Medio Oriente, e sono due modi completamente diversi di vedere questa questione, che sta passando in secondo o terzo piano nei media, come sapete, dopo l'inizio di questa fragilissima tregua. Primo è Berlusconi: i razzi su Israele sono come razzi contro di noi. Sentite. Quando abbiamo sentito le notizie dei razzi che cadevano sulle case di Israele, noi veramente le abbiamo sentite come un pericolo anche per noi, come un pericolo per tutto l'Occidente, per la nostra filosofia della libertà e della democrazia. E l'altro commento è di Massimo D'Alema ancora, che questa volta da Assisi, dove ha partecipato alla marcia della pace, la tradizionale marcia della pace, se l'è presa con quelli che ha definito gli ex fascisti o i fascisti, comunque gli ex missini, quelli dell'Alleanza Nazionale, in particolare il Presidente della Camera, i quali fanno dell'amicizia con Israele una nuova battaglia per pulirsi, diciamo, dal loro antisemitismo del passato. ci sono personalità politiche che hanno bisogno di fare del rapporto con Israele, diciamo, la testimonianza del loro aver cambiato pelle, perché vengono da una tradizione fascista e antisemita. Naturalmente D'Alema non ricorda l'antisemitismo della tradizione comunista, ma questo è un discorso a parte. Alle 18.47, due minuti con Vittorio Emanuele Parsi, docente dell'Università Cattolica di Milano, relazioni internazionali, editorialista della Stampa. Buonasera. Buonasera a voi. Perché questa tregua è definita da tutti fragilissima, professor Parsi? Ce lo spieghi brevemente. Beh, innanzitutto perché è una tregua composta da due tregue unilaterali che non si parlano reciprocamente. In secondo luogo perché, proprio per questo motivo, non ci sono controparti, quindi l'uscita degli israeliani dalla striscia di Gaza, se e quando avverrà, lascerà probabilmente un vuoto politico programmatico, sarà quindi molto difficile che qualcuno si assuma la responsabilità del mantenimento della tregua. Senta, professor Parsi, è facile dire mandiamo i carabinieri? No, non è facile. Il problema qui, la differenza grossa rispetto alla situazione libanese, per fare un parallelo molto vicino, e che in quel caso gli attori avevano un interesse a stabilizzare la tregua e quindi serviva semplicemente qualcuno che consentisse questo passaggio iniziale quando la fiducia è scarsissima. In questo secondo caso non è così. Paradossalmente qui serve un contributo politico molto maggiore, ben più che non far tacere le armi. I carabinieri serviranno, per così dire, ma saranno impegnati in un compito da far tremare le vene dei polsi. Senta, il vero problema è quello del transito delle armi? Questo è un problema importante, perché chiaramente finché Hamas avrà la possibilità di ricorrere con facilità alle armi, avrà un incentivo in meno, perché al suo interno le correnti più trattativiste possono prevalere rispetto a quelle più estremiste che mirano ancora alla distruzione dello Stato di Israele. La ringrazio, buona serata. 18.48, Marcello ci chiama da Bari, buonasera. Buonasera a lei e a tutti chi ci ascolta. Non ho nessuna domanda da fare, avrei solamente da esporre un mio stato d'animo. Diverso tempo fa, circa un anno, ho deciso di smettere completamente di andare a votare perché sono rimasto schifato dalla politica indipendentemente dal colore. Sto riprovando nuovamente questa stessa situazione nel momento in cui mi sono accorto che da, tra virgolette, essere di parte per Israele, perché mi hanno sempre trasmesso determinate informazioni su quello che è accaduto al popolo ebraico, dopo che ho visto delle fotografie sull'immane potenza di fuoco che hanno utilizzato per le ritorsioni, sono rimasto veramente colpito da questi genitori con dei bambini fra le braccia morti, tra parentesi io sono papà di due bambini, per cui anche lì sono rimasto interdetto. E ho cominciato a non capire più dove fosse la verità, a pensare che una reazione così violenta non fosse proporzionata. La mia paura, e quindi chiudo brevemente il mio intervento, è che andando avanti così comincerò a non credere più alle cose che vengono dette e non riesco a immaginare che cosa possa riuscire a trasmettere ai miei figli. Era solamente questo che volevo dire. La ringrazio, Marcello. Andiamo a sentire che cosa? Una barzelletta di Berlusconi. Della serie il teatrino della politica, Berlusconi il 17 gennaio, cioè sabato, durante la campagna elettorale in Sardegna, che cosa ha detto al termine di un comizio insieme al candidato del centrodestra? Sapete quella del campo di concentramento? Così la racconta l'Ansa. Il presidente del Consiglio inizia a raccontare imitando la voce di un soldato tedesco che parla ai prigionieri. Per voi ho una buona notizia e una meno buona. Metà di voi saranno trasferiti in un altro campo e quando tutti gridano evviva e chiedono quale sia quella cattiva, lui aggiunge: quella meno buona è che la parte di voi che sarà trasferita è quella che va da qui in giù. E nel dire questo con la mano indica dalla cintola in giù. È il Berlusconi delle barzellette, il Berlusconi delle battute, forse questa poco opportuna su un campo di concentramento in questa fase storica, in questi frangenti. Marco da Cosenza, buonasera. Buonasera Luciani. Io proprio in riferimento a questa barzelletta le volevo chiedere una cosa e poi un'altra domanda secca. La prima è questa. Dunque, secondo lei non è molto più grave questa barzelletta rispetto addirittura a un gesto che io deploro assolutamente, però bruciare la bandiera di Israele? Prendo su tutti quanti quelli che parlano male di Israele, proprio il gesto più grave, no? Le dico, per cui dentro questo gesto poi c'è Santoro, eccetera, eccetera, quindi tutti quelli che sono critici verso Israele. Prendendo il gesto più estremo, non le pare molto più grave una barzelletta di questo genere che a me ha fatto quasi piangere? Ma guardi, credo che... Non hanno parlato nessuno, ne sta parlando lei, c'era un'ansia sul Corriere della Sera, ma nessuno ha scritto si è degnato di scrivere un articoletto su disdegno su una cosa del genere. Cioè questo è anche il mio Presidente del Consiglio, si rende conto della gravità del fatto. Sì, Marco, io non iscriverei questa cosa tra le cose più gravi dette e fatte da un uomo politico. È una barzelletta di cattivo gusto. D'altra parte Berlusconi ci ha abituato alle sue barzellette, diciamo che quelle sui campi di concentramento se le può anche risparmiare. Io credo che non sia qualcosa di comparabile a bruciare una bandiera, non c'è niente di antisemita in quella barzelletta. L'atto di bruciare una bandiera è, come scrive oggi, se non sbaglio, Paolo Guzzanti sul Giornale, un gesto simbolicamente genocida, esprime cioè il desiderio di mettere a rogo un popolo, un'etnia. Io sono d'accordo con questo e credo che non ci sia niente di comparabile in una barzelletta che resta di cattivo gusto. Marco? Sì, la domanda invece che le volevo fare sì, che è questa. Lei poco fa ha parlato di antisemitismo di sinistra. Io non lo ricordo, insegno storia all'università. Me ne potrebbe dire lei un esempio? Guardi, sulle vicende dell'Unione Sovietica, di Stalin, l'antisemitismo del comunismo, insomma, se ne potrebbe parlare a lungo, guardi, se ne potrebbe parlare. Sempre in questo articolo che adesso ho recuperato di Guzzanti, il perfetto antisemita, scrive Guzzanti, dice, come diceva Stalin quando lanciò la grande purga contro gli ebrei poco prima di morire, l'antisemitismo è una barbarie nazifascista che noi respingiamo totalmente con sdegno, noi però condanniamo il cosmopolitismo. E poi, insomma, diede avvio alla purga contro gli ebrei. Ma non c'è stata purga comunque. No, per carità, non c'è stata purga degli ebrei durante lo stalinismo. Degli arresti mirati a Mosca, figuriamoci, dove ne hanno fatte cose terribili, ma non c'è stata una purga. Guardi, ci sono migliaia. Quelle dell'Ucraina, quelle accadute in Ucraina sotto lo zar, oppure nella stessa Ucraina durante l'occupazione. Ci sono migliaia e migliaia di pagine scritte da storici e da giornalisti sulle purghe staliniane nei confronti degli ebrei. La ringrazio, Marco. Andiamo a Como, un altro Marco. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo intervenire riguardo al discorso che ha fatto il Ministro sulla social card e sull'uso dell'ISEE in particolar modo. A me sembra che cioè, i provvedimenti che si prendono sono alle volte estremamente complicati nella determinazione dei redditi delle persone e delle possibilità che hanno le persone, e alle volte è veramente difficile che poi in realtà chi eroga questi contributi sia in grado di fare dei controlli efficaci. L'ISEE in particolare, secondo me, in questo periodo viene utilizzato spesso anche a sproposito. Se l'uso dell'ISEE per la social card può avere un senso, ma altre volte viene utilizzato per la determinazione di rette, di asili, di rette, sì, di certo, certo, tasse universitarie. Ma poi in realtà chi compila queste tabelle non è in grado realmente di verificare determinate condizioni. Sì, Marco, d'accordo, e certamente si può cambiare, si può utilizzare un altro metodo, però quello abbiamo, diceva Tremonti. Poi si può discutere di tutto. Anche a me, quando l'hanno compilato, c'era qualcosa che potevano controllare meglio, anche se naturalmente ho dato tutti i documenti necessari. Però quello abbiamo, gli squilibri certo ci possono essere. Manuela da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io intervengo per la famosa carta acquisti che mia madre fortunatamente ha avuto. Sì. Però era carica? Era carica, Manuela? Sì, era carica. Meno male, dunque sua madre aveva tutti i requisiti. Ho caricato, però le problematiche sono subentrate subito dopo, perché cioè? Ancora quella di gennaio e febbraio l'importo di 80 euro non ci sono. Ma è il numero verde che avevano messo a disposizione, non funziona, vale a dire una persona di 80 anni, perché io penso che molte persone siano anziane, quelle che hanno avuto questa carta, dunque dovrebbero digitare 16 campi, la data di nascita divisa per giorni, 4 cifre, l'anno, insomma, non va. Quindi bisogna andare con questa carta, parliamo sempre di anziani, sì, in sì. un banco posta. Mia madre non ha il banco posta esterno, quindi deve farsi tutta la fila nella posta, perché loro riescono a dare il saldo. Lo so, Manuela, lei ha ragione, ci sono diverse questioni aperte, qualcuno li chiama malfunzionamenti, per altri invece sono delle vere e proprie storture. Poteva essere organizzato meglio il tutto, su questo non c'è dubbio. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3 delle 19. Peggiorano le previsioni di Bruxelles per l'Europa, crolla il PIL, in Italia meno 2%, in Germania meno 2,3%, timori per l'occupazione. PDL e i dati UE confermano che l'Italia regge la crisi economica più di altri paesi, Bersani sonora bocciatura della linea Tremonti. Oggi l'America celebra Martin Luther King, domani il giuramento di Obama, l'Inauguration Day costerà 170 milioni di dollari. Regge la tregua a Gaza, aspettando gli aiuti si contano le vittime, Hamas grida vittoria, Abu Mazen propone un governo di unità nazionale. 26 immigrati dispersi nel naufragio di un barcone che dalla Tunisia tentava di raggiungere le coste italiane. Allarme droga a Milano, ogni giorno si consumano 27 kg di cocaina, una piaga sociale che colpisce sempre più gli adolescenti. Griseliani e arabi da 10 anni insieme in un'unica orchestra, ieri sera alla Scala il fondatore dice voglio suonare a Gaza. Allora, bisognerebbe fare sicuramente molto di più, però si muove qualcosa, certamente. Il Presidente della Camera, stiamo parlando della vicenda Battisti, che ci colpisce molto e su cui continueremo ad insistere fino all'infinito. La Camera dei Deputati scrive Fini in una lettera inviata al Presidente della Camera del Brasile, la Camera dei Deputati, come l'opinione pubblica italiana, è rimasta molto perplessa e sconcertata per il fatto che nel bloccare di fatto l'estradizione alla decisione del Ministro della Giustizia conceda a Battisti lo status di rifugiato con motivazioni, tra cui quella di fondati timori di persecuzioni, al rientro in Italia francamente inaccettabili per un paese profondamente democratico e di grandi tradizioni giuridiche qual è l'Italia. Duole notare che con il provvedimento il Brasile è l'unico paese al mondo a riconoscere lo status di rifugiato a un nostro connazionale. Questo dice Fini, speriamo che la cosa abbia un seguito e ci siano pressioni sufficienti per far rientrare Battisti in Italia e fargli scontare la sua pena. Andiamo subito a sentire il TG di Sky. I numeri della crisi, secondo l'UE, PIL in calo, Italia fuori dai parametri di Maastricht. La vigilia di un presidente, Obama si rilassa aspettando il giuramento di domani. Gaza prosegue il ritiro delle truppe israeliane, Abu Mazen propone patto ad Hamas. Caso Battisti, Fini protesta col Brasile, inaccettabile la mancata estradizione. Eluana, Sacconi al contrattacco, sono indagato ma non mi faccio intimidire. Rai, Villari disponibile alle dimissioni, prima il nuovo CDA, poi me ne vado. Marocchino picchiato, ucciso e gettato nel lago di Garda, in manette una baby gang. 26 immigrati dispersi tra Italia e Tunisia, in 200 sbarcano a Lampedusa. Gas, firmato l'accordo fra Mosca e Kiev, Putin ordina di riaprire i rubinetti. Giallo cacà, Galliani vede Berlusconi e tratta con il padre del brasiliano. E non ci lasceremo. Ci lasceremo mai, stiamo parlando di Alitalia e gli scioperi, i sindacalisti e i sindacati. Nuova Alitalia, infatti, vecchi scioperi. A Fiumicino questa mattina voli cancellati, 22, protestano per 4 ore gli aderenti al sindacato dei lavoratori, criteri di assunzione applicati senza alcuna trasparenza. Sentiamo uno dei sindacalisti, motore della protesta. Il numero degli organici è assolutamente insufficiente e va rivisto. I criteri che sono stati eseguiti sono assolutamente inaccettabili. Se le cose non cambieranno è il primo di una lunga serie di scioperi. Muscoli da podio ma di salute cagionevole. Segretario nazionale SDL Andrea Cavola promette battaglia Nuova Italia, vecchi scioperi. A proposito dell'Italia, forse il frammento audio del giorno è quello del ministro Tremonti. Frase pronunciata ieri durante la trasmissione di Fabio Fazio su Rai 3, che tempo che fa, e allora sentiamolo dire Tremonti, ma anche con Air France e comunque l'offerta non c'era, avremmo pagato, lo Stato avrebbe sborsato gli stessi soldi. La vicenda all'Italia della quale tanto si è detto, dal punto di vista dei conti, lei è soddisfatto o poteva andare, era meglio l'offerta del, diciamo, del Air France col precedente governo? Esatto, Air France non c'è mai stata, se ci fosse stata costava uguale, quindi sono tutte balle. Tutte balle, dice lei, sì, bene. Costava uguale. Non lo so, 3 miliardi in più o in meno. No, cioè Air France c'è stata, ha fatto l'offerta o no? L'ha ritirata o non l'ha fatta? Quindi stiamo parlando di un'invenzione. Secondo, come ha fatto l'offerta? Costava uguale. Questa è l'opinione di Tremonti, nonostante quello che abbiamo letto negli ultimi giorni, direi su tutti i giornali, da parte di molti analisti. Antonio da Padova, buonasera Antonio. Buonasera, grazie per lo spazio concesso. Molto brevemente due cose. La prima, ci sono state nel 2004, mi pare 1400 firme, poi se ne saranno aggiunte ancora, da parte degli intellettuali italiani e francesi per la scarcerazione di Battisti dalla Francia. Sì, un piccolo gruppo di intellettuali, sia chiaro. Un gruppo, 1400, dentro ci sono persone come Roberto Sadiano, Paolo Russo Spena, è pubblicata su internet. Sì, lo so, sul sito di Carmilla, così si chiama, non ripetiamo indirizzo internet, ognuno può andare a vederlo. A proposito di Saviano, poi gli ridò subito la parola. Antonio, ancora non c'è stata in questi giorni una smentita ufficiale, perché c'era stata nel passato, ripeto, solamente una smentita della casa editrice che aveva rinnegato la firma di Saviano sotto quella sottoscrizione, ma lui non si è mai pronunciato. Antonio, prego, dica. Ecco, quindi era la prima cosa, è che mi lascia un po' basito, che tant'è. Punto due, mi sembra un po' strano, parliamo di Israele, il fatto che prima uno Stato venga trascinato in una guerra che non vuole, perché se c'è qualcuno che vuole la pace probabilmente è Israele, cioè lo dichiara, lo vuole, ha una fame di pace da far paura, viene trascinato in una guerra che non vuole e poi si contesta le modalità con cui la porta a termine. Io penso che la guerra sia qualcosa di aberrante, penso che lo pensino chiunque, ma nel momento in cui mi vengo trascinato, purtroppo mi comporto da guerrafondaio ed è inevitabile che poi ci sono i morti che piangono, è per questo che bisognerebbe evitarla. Basta semplicemente smetterla di lanciare i razzi, cioè mi sembra l'uovo di Colombo, ma probabilmente tanta quell'intelligenza che poi magari sottoscrive le firme per Saviano, cioè mi scusi, sottoscrive le firme per Battisti, poi magari vorrei vedere se lo facessero per la Mambro o per Delfo Zordi, una roba del genere, no? Questo sì. Non mai, puoi mai. Lei sta unendo due questioni, quella di Israele con le firme su Battisti. Fermiamoci qui, la ringrazio Antonio, andiamo a sentire uno dei più bravi attori italiani, Antonio Servillo, come sapete, protagonista di diversi film, tra cui Gomorra. E però ogni tanto anche i migliori si fanno prendere da quello snobismo intellettuale. Così giudica Servillo, da Luce Annunziata, ieri, i reality, che è, come sapete, una delle forme televisive, dei format televisivi più in voga in questo momento. Fanno ascolti, anche se in calo rispetto a prima, comunque fanno opinione, vengono ascoltati, vengono visti soprattutto i reality. Sentite lo snobismo di Servillo. Non faccio fatica a dirlo, questa azienda che gentilmente ci ospita è stata diretta per il passato da uomini come Paolo Grassi. Cosa direbbe Paolo Grassi davanti ai reality che si vedono in televisione, dove appunto lo spettacolo delle idee, l'intrattenimento a discapito dei sentimenti, dell'autenticità, è veramente un perpetuare la barbarie, una corruzione della gioventù. E addirittura barbarie, corruzione della gioventù, e che sarà mai? Anche lì c'è la libertà del telecomando. Maurizio da Roma, buonasera. Buonasera. Buonasera dottor Cruciani e buonasera a chi ci dica. Dica. Io volevo da lei un pochettino di delucidazioni per quanto riguarda il ministro Tremonti, perché io non ho ben capito, mi sono perso. Prima delle elezioni era stata impiantata la trattativa con Air France, mi sembra, ed era stata ben accettata. Poi per motivi diversi è caduta, perché Berlusconi ci ha messo del suo e i sindacati per altro verso ci hanno messo del loro. Ci siamo ritrovati praticamente che la doveva acquistare i figli di Berlusconi, così lui aveva detto, oppure una cordata italiana, così aveva detto. Adesso ci troviamo, io credo, poi mi corregga se sbaglio, ci troviamo praticamente con che cosa? Con una l'Italia che non è affatto italiana, che molto probabilmente al primo aumento di capitale sarà tutta di Air France, da qui forse a 12 mesi. Ci ritroviamo praticamente già fuori a gennaio abbondantemente a dei parametri di Maastricht. A me prima mi faceva rabbia sto Tremonti, oggi mi fa anche pena, perché è sballottato praticamente dal suo dal suo capo, dal suo boss. Ecco, questo è la considerazione che io faccio. E, non lo so, forse ho perso qualche passaggio, forse ho perso qualche mese. Guardi Maurizio, Tremonti fa una considerazione di tipo economico sui conti che lo Stato si accolla dall'operazione all'Italia e dice anche se ci fosse stata l'operazione in Francia comunque lo Stato avrebbe pagato la stessa cifra. Ripeto, tutte le analisi economiche che io ho letto finora vanno in una direzione diversa. Devo dire che questa mattina c'è un'intervista di Gaetano Miccichè, che è capo della divisione corporate di Intesa San Paolo, che è chiaramente parte in causa perché ha guidato questa vicenda della CAI. Ebbene, in un'intervista alla stampa Miccichè dice: chi dice che Air France se la sarebbe comprata? Per l'accordo di aprile avevano posto una lunga serie di condizioni, alla prima di queste condizioni si sono trovati di fronte un muro. Nostro ospite per la serata, per commentare insieme i fatti del giorno, Fulvio Abbate, giornalista, scrittore, buonasera, ciao Fulvio. È uomo finito, buonasera a tutti. Uomo finito addirittura? Sì, mi si è... ho perso 18 anni di memoria telematica col mio Mac che è andato in fumo. Oggi? Ma dicono che i Mac siano fantastici da questo punto di vista, invece? Speriamo bene che riescano a recuperare i palombari, i contenuti per il momento andati perduti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Hit da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Sono del Libano, Beirut, e sono qui in Italia da 7 anni. Volevo intervenire sul conflitto palestinese-israeliano. Dica. Quello che vorrei dire è che praticamente quello che stanno facendo gli israeliani in quel territorio lì non sono stati trascinati in guerra. Loro praticamente, dopo che hanno lasciato Gaza 8 anni fa, hanno controllato proprio questa striscia qua di Gaza, che è piccolina, sappiamo tutti. Va bene non lasciare entrare gli armi e i razzi e tutto, però non vuol dire controllare anche, oppure decidere che adesso possono avere la benzina o per avere l'elettricità oppure avere da mangiare. Praticamente parliamo sempre di democrazia e poi il popolo palestinese stesso ha scelto Hamas, di cui io sono contro Hamas perché in qualche modo sono pilotati dall'Iran. Però alla fine il popolo ha scelto Hamas perché è l'unica via per uscire. Hanno scelto la resistenza, che è una cosa, sappiamo tutti che è una cosa sacra, ma non vuol dire uccidere così. Israele non è mai stata, cioè, secondo me gli europei sono stati bloccati dall'antisemitismo che ha regnato, diciamo, negli anni passati. Però non vuol dire, anche quando lei ha parlato della trasmissione di Santoro 2 giorni fa, è vero, non lo conosco, non ho visto la trasmissione, però è vero che la vittima sono i palestinesi stessi e il cattivo in questo caso non gli ebrei ma gli israeliani, quelli che controllano. E guarda caso, prima di ogni elezione fanno questi omicidi qua, fanno questi genocidi, non so come chiamarli, per poi vincere alle elezioni. Guardi, a proposito della... lei ha mischiato un sacco di cose insieme, ho capito pochissimo dal suo intervento, per carità, sarà colpa mia certamente. Lei ha però pronunciato la parola genocidio. Allora io voglio riprendere un'intervista di oggi di una scrittrice americana che si chiama Cinzia Ozick, è naturalmente una scrittrice americana, e però mi sembrano parole molto significative. È una scrittrice e autrice di capolavori della letteratura ebraica, così viene definita dal Corriere della Sera, non la conoscevo, però mi sembra significativo quello che dice. Fulvio, te lo dico anche a te se non hai letto questa intervista. Come si può usare la parola genocidio per descrivere l'autodifesa di un popolo contro un gruppo che dichiara apertamente di volerlo annientare? Per 8 anni Israele ha porto l'altra guancia di fronte alla pioggia di migliaia di missili. È il momento di reagire. Come ti sei posto di fronte a questo diluvio di informazione che c'è stata nelle ultime settimane sulla striscia di Gaza, Fulvio? Io devo dire una cosa, io ho l'umiltà di ammettere così una scarsa informazione. Io per storia sono fra coloro che negli anni 70 guardava alla resistenza palestinese con grande emozione, sinceramente. Sì. Qualche anno fa, quando qualcuno propose un boicottaggio di Israele al Salone del Libro di Torino, ho scritto sull'Unità un pezzo dove confessavo che probabilmente la mia laicità si sarebbe sentita più al sicuro in Israele che non in un contesto dove si fa riferimento in modo onnipresente alla parola Dio, sinceramente. Detto questo, mi sembra che in questo momento ciò che i palestinesi stanno subendo dalle armi israeliane sia un fatto inaccettabile. Andiamo, cioè, andiamo a Modena, Fabrizio. Fabrizio, buonasera, dica. E io le volevo fare una domanda da ignorante della politica e della storia d'Italia degli ultimi 50-60 anni. Sì. Io volevo sapere come mai i sindacati trattano i lavoratori in modi diversi a seconda il tipo di lavoro che facciano. Io posso capire che uno che sta in miniera non possa lavorare 40 anni in miniera, ma ne debba lavorare 20 e poi basta. Ma come si fa a dire che un insegnante ne lavora 15 e poi va in pensione per altri 50 anni? Che un pilota della Italia ha 7 anni di cassa integrazione? Queste discriminazioni qua non sono razzismo poi. Io non è che dico colpa o torto, ragione ai sindacati, però bisogna che si spieghino queste cose qua. Cioè, lei, non ho capito bene ancora una volta, sarà un problema mio. Lei dice c'è una differenza di trattamento, come sembra certificato ormai, tra lavoratori e lavoratori. Per esempio, i lavoratori dell'Alitalia sono stati premiati, tra virgolette, più degli altri con 7 anni di cassa integrazione rispetto ad altri lavoratori. Non c'è dubbio che i lavoratori dell'Alitalia, ex statali ormai, o statali fino a poco tempo fa, siano stati da questo punto di vista premiati, e non solo per questo. Andiamo a provincia di Perugia. Francesco, buonasera. Sì, salve. Dica. Allora, io oggi devo partire da Roma, l'aeroporto. Purtroppo, come è stato già detto, il volo è stato cancellato. Sì. Quindi, parlando di numeri, poco prima di me è stato detto che i piloti, da dove nascono la maggioranza degli scioperi, prendono una cassa integrazione di 7 anni. Poi, no, questo non c'entra niente con lo sciopero di oggi, però. No, i piloti, però... gli ex dipendenti Alitalia, Air One, insomma, quelli che sono finiti in cassa integrazione adesso con l'operazione CAI, non c'entra, guardi, nulla con lo sciopero. No, guardi, giustissimo. Però purtroppo, nonostante le parole, i numeri che ci sono, coloro che fanno, alla fine, che pagano i costi, sono i singoli cittadini, i quali non so poi effettivamente quanto c'entrano su quello che accade in maniera così esterna dalla vita dei singoli, no? Guardi, certamente in questo caso sembra non essere cambiato nulla, nuova l'Italia, vecchi problemi. Certo, lo sciopero oggi è stato limitato, 30 voli cancellati. Insomma, sembra che non sia cambiato nulla. Speriamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io voglio chiedere a Fulvio Abate se ha mai preso questo nuovo treno Freccia Rossa. No, assolutamente. Io sono a memoria del treno del sole, credo si chiamasse così. È una roba che va al sud, credo, mi sembra di capire. Cioè, non hai mai preso un Eurostar a Roma-Milano? Sì, l'Eurostar sì, insomma, ma l'Eurostar sono una roba, diciamo, accettabile. Quando c'è il ritardo scoppia questa insurrezione insomma, fra i passeggeri che calcolano e dico adesso ci rimborseranno il biglietto, e quindi, diciamo, si incrementa questo sentimento di rivalsa contro le istituzioni ferroviarie. Però insomma, no, l'alta velocità mi manca, c'è qualcosa di nuovo? No, la cosa nuova in realtà non è così nuova, è che da una parte c'è Freccia Rossa e dunque un'Italia che va molto veloce, e cosa molto positiva, insomma, no, non c'è dubbio. Però apprendiamo che in Sicilia, lo si sapeva da tempo, in realtà le cose vanno molto diversamente. Vi presento Josué Malaponti, buonasera. Buonasera, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Lei è coordinatore del Comitato Pendolari Messina, Catania, Siracusa. Senta, Malaponti, le faccio subito una domanda. Sì. Abbiamo letto, io lo sapevo perché insomma me ne sono occupato anche di recente, che per fare 200 chilometri tra Palermo e Catania, tra Catania e Palermo, cioè tra le due città principali della Sicilia, 200 chilometri, più o meno gli stessi che ci sono tra Bologna e Milano, anche se il paragone è improprio, ci vogliono 5 ore circa, poi insomma con, sì, i cambi si può arrivare anche oltre le 5 ore, ma com'è, sì, possibile una cosa del genere? Lei quante volte fa questo percorso? Intanto dico, sto ritornando, l'ho fatto già stamattina questo percorso, in realtà oltre le 5 ore bisogna scendere e salire dal treno due volte per fare due cambi, dico, questa è la stranezza. Questo dipende da una rete ferroviaria ormai antiquata, ancora a binario unico, parte non elettrificato. Questo è il divario, c'è un'Italia che va come una freccia, ha possibilmente la freccia rossa, ma in Sicilia, così come ha voluto titolare la nostra provincia regionale di Catania, abbiamo la freccia rotta. Senta, lei è in treno in questo momento, Malaponti? Sì, io sono in treno. Sta tornando a Catania o sta andando a Palermo? No, sto tornando adesso, l'ho fatta stamattina, sto tornando da Catania verso Messina, perché abito a Friulfreddo di Sicilia, a 40 km di Catania. Questa mattina quanto ci avete impiegato? So che c'è stata un'iniziativa insieme al Presidente della provincia di Catania, quanto ci avete impiegato? Siamo partiti alle 10.40 per arrivare a Palermo alle 15.45, quasi puntuale, quindi le classiche 5 ore, ma la cosa più bella è che abbiamo fatto una sosta a Caltanissetta Xirbi, quasi in mezzo alla campagna, dove abbiamo fatto un piccolo spuntino, e l'altra sosta a Rocca Palumba, da far notare che comunque sia nell'una che nell'altra stazione servizi zero, bagni chiuse, sala d'aspetto chiuse, quindi grazie alla bella giornata di oggi abbiamo potuto goderci un po' il panorama. Viceversa, una giornata piovosa di qualche giorno fa ci saremmo forse inzuppati abbastanza. Senta Malaponti, però io so che da Palermo c'è un treno diretto, in realtà la mattina sempre intorno alle 5 ore ci mette, c'è un treno diretto che da Palermo porta a Catania, o sbaglio, la mattina presto, credo, uno solo? Dipende sempre se c'è qualche treno a lunga percorrenza in ritardo, cioè questo in realtà va a modificare l'orario d'arrivo. Succede spesso che, nonostante tutto, un treno nella fascia protetta dei pendolari che va dalle 6 alle 9, la dirigenza del Movimento Centrale condanna, anche se è previsto l'articolo 7, quindi un treno dei pendolari per graduatoria diretta di importanza 1 viene penalizzato dal dirigente. No, non ho capito niente, Malaponti. C'è questo treno diretto tra Palermo e Catania la mattina, sì, o no? Sì, sì. C'è un treno solo al giorno diretto, ci mette quanto? Sì. Anche quello intorno alle 5 ore? No, un po' meno. 4 ore, 3 ore e mezzo, 4. Che è sempre tanto comunque, eh? Eh sì, volendo considerare la distanza anche tanto, io le faccio un altro paragone molto più semplice. Sulla Messina-Catania, 95 km, con un diretto impieghiamo 1 ora e 40, quindi anche lì, anche se la tratta è servita da, su 95 km da 45 a doppio binario, in realtà impiega sempre tanto a livello di percorrenza. Senta Malaponti, naturalmente con la macchina, oppure anche se l'autostrada, bisognerebbe discuterne moltissimo, pure in questo caso, con la macchina o col pullman ci si mette molto meno, in pullman 2 ore. 2 ore e 40. Ma chi lo fa allora questo viaggio in treno? Nessuno. Chi è che viaggia tra Messina, tra Palermo e Catania? Le posso dire che sulla tratta Catania Caltanissette, se no, ci saranno 5-6 viaggiatori al giorno in questo treno, dico apposito, sì. Ma la maggior parte viaggio degli studenti da Catania Nuova verso Catania e viceversa verso Caltanissetta. Cioè tra Palermo e Catania, chi è che fa tutto il percorso? Quasi nessuno? No, quasi nessuno, perché in realtà i palermitani, molti si fermano in zona Caltanissetta o Rocca Palumba perché hanno poi la coincidenza per Agrigento, quindi sì. Diretto nessuno, anche perché, dico, impensabile che io mi alzi la mattina alle 5 per prendere un treno alle 6 per arrivare alle 11 a Palermo, dico, impensabile. No, assolutamente. Malaponti, senta, mi dica la verità, perché oggi il presidente della regione della provincia di Catania ha detto, sì, beh sì, la colpa è di tutti, come al solito, basterebbero 25 milioni per ammodernare la linea e per ridurre comunque gli orari, i tempi di percorrenza. Questo è vero, cioè da anni la classe politica siciliana sperpera soldi in vari rivoli, si potrebbero impiegare questi denari in maniera molto più proficua sulle linee ferroviarie, o no? Io dico, una volta solamente nella storia della regione siciliana ha investito nel 2002 con 50 milioni di euro per cofinanziare l'acquisto dei minuetto. L'idea dei 20 milioni di euro al momento che occorrerebbero per velocizzare la Catania-Palermo con 3 fermate potrebbe essere fattibile come respiro. Certo. Allora, in realtà quello che noi chiediamo, vogliamo le infrastrutture, vogliamo i raddoppi, vogliamo tutto elettrificato, vogliamo almeno un terzo di quello che si è speso al nord per l'alta velocità o per le altre regioni che comunque hanno molte più infrastrutture ferroviarie. Senta Malaponti, un ascoltatore mi scrive una cosa: è vero che il presidente Cuffaro, l'ex presidente Cuffaro, la sua famiglia eccetera gestiscono anche linee di autotrasporto? No, glielo posso smentire, è solamente un caso di omonimia, tranquillamente. Senta, resti con noi, voglio sapere dove si trova, in questo momento dov'è lei? Io in questo momento siamo quasi per arrivare alla Cireale. Quasi per arrivare alla Cireale. Fulvio Abate, due Italie ci sono, No, c'è l'Italia, però devo dire, adesso non vorrei fare un discorso letterario da palermitano. Tutti si va col pullman a Catania, da Palermo. Però chi vuole vivere un'esperienza, diciamo come gli antichi viaggiatori, tipo, che ne so, Goethe, vedendo un paesaggio da film western, invece va col treno, è straordinario da questo punto. No, da questo punto di vista, se uno si vuole prendere del tempo, non c'è dubbio, però non possiamo dimenticare che Palermo e Catania sono pure due città, insomma, che sono molto attive, commerciali, in particolare Catania. Ma lo stesso problema può riguardare Palermo, Trapani, dove nessuno prende il treno, perché sarebbe pura follia, a meno che uno non voglia contemplare il visibile naturale. Ecco. No, certo. Per farle, tu dici, se uno vuole fare un viaggio filosofico. Sì, assolutamente filosofico, oppure con il paesaggio, forse lo ricorderanno gli ascoltatori di Divorzio all'italiana, sedotta e abbandonata, quel paesaggio lì. Bellissimo, sì, è certo. Meraviglioso, che sembra anche una specie di grande sertao. Lo fa col treno, è meraviglioso. Ma non avendo in mente di dover andare, che ne so, a pagare una cambiale entro le 11 della mattina, insomma. Assolutamente. Allora andiamo ancora a sentire ascoltatori. Intanto Malaponti, resti con noi, perché così ci avverte dove è arrivato, e se è arrivato soprattutto. Prima, qualche minuto fa, si trovava ad Acireale. Andiamo a... Che c'è, Malaponti? Che è successo? No, dico, ci trovavamo le presse Acireale, ancora dobbiamo arrivare alla Acireale. Ancora deve arrivare alla Acireale. Benissimo. Marco da Milano, buonasera. Ciao, buonasera. Un quesito. La cronologia dei fatti è questa: hanno praticamente arrestato il buon Setola, dopodiché una commissione ha deliberato che era cieco, mi pare all'80%, viene messo agli arresti domiciliari, scappa una faida di 19 morti con lui coinvolte, forse con lui a capo, lo ritrovano, scappa per le fogne, lo ritrovano e lo arrestano. Non ho letto due righe e nessuno ha mai trasmesso niente su chi ha deciso che fosse cieco. Una vergogna, veramente. Ma a lei non sembra strano una cosa del genere? Molto strano, bisognerebbe indagare certamente di più. La ringrazio. Un altro ascoltatore da Milano, Maurizio, poi andiamo a Prato. Maurizio, buonasera. Sì, buonasera. Era solo un intervento per conoscere un po' di più su questa dramma della Palestina e Israele. E mi pare che fosse stata fatta una risoluzione ONU per un cessate un fuoco immediato, con la sola astensione degli Stati Uniti. Me lo confermano, non mi ricordo il numero esatto adesso della risoluzione. No, guardi, il cessate il fuoco è stato deciso unilateralmente da Israele. C'è stata una risoluzione ONU. La risoluzione ONU, sì. Ce ne sono state diverse di risoluzione ONU recentemente, ma su questo conflitto c'è stata un'astensione degli Stati Uniti, dunque non è passata. No, è passata lo stesso, credo, perché si è solo astenuto, non ha fatto il veto, è differente. Guardi Maurizio, adesso le vicende dell'ONU, che mi pare non abbia grande spazio in quella zona, l'ONU, perché Israele non se lo fila proprio l'ONU, per cui non ha avuto un grande ruolo, per cui non le ho seguite nel dettaglio. Qual è il suo intervento? Cosa ci vuole dire? Era proprio questo, era solo per capire se in fin dei conti queste risoluzioni ONU a volte vengono rispettate, a volte no, che valore attuale ancora hanno. Ecco, è questo, capisce, perché... Guardi, se lo chiede a me, insomma, bisognerebbe parlare a lungo dell'ONU, dell'utilità dell'ONU, eccetera, eccetera. Sarebbe un discorso molto lungo e anche molto critico nei confronti in generale del ruolo dell'ONU nel mondo e sull'utilità ancora di una struttura di questo tipo. La ringrazio, Maurizio. Andiamo ad Alessandria. Walter, buonasera. Walter, mi sente? Non ci sente. Andrea da Prato. Andrea, eccoci. Sì, buonasera. Andrea Gori da Prato. Grazie per lo spazio che mi concede. Grazie a lei di averci chiamato. Dica pure. Sulla frase di Tremonti che avete opportunamente mandato in registrazione. Tre punti. Uno. Se la proposta ex Air France non esisteva, contro cosa si è scagliato Berlusconi in campagna elettorale? Due. Se è lo stesso... La soluzione di ora equivale a quella ipotizzata 8 mesi fa, perché sollevare tutto questo bailam per passare da una soluzione precedente a una soluzione posteriore praticamente uguali? Terzo, ammettiamo pure che le due soluzioni siano uguali. negli 8 mesi trascorsi da quando si sarebbe materializzata la prima, o poteva materializzarsi la prima, 8 mesi sono 240 giorni. La stessa vostra emittente ha riferito per diversi mesi, nei mesi passati, che Alitalia, nella sua forma precedente, si mangiava 2,56 milioni di euro al giorno. Se lei fa 240 per 2,56, sì, ottiene 615 milioni. Se si aggiungono i 300 milioni del prestito ponte, noi scopriamo che a questo punto abbiamo ceduto all'Italia la cordata per 1 miliardo, se l'avevamo data gratis a Air France 8 mesi fa forse avremmo fatto un affare, considerando che noi abbiamo venduto la parte attiva e la cosiddetta bad company è tutta sulle nostre spalle. No, guardi, io prima una breve parentesi su un altro argomento, ma brevissima. Prego, prego. Però restiamo sullo stesso argomento un attimo, poi apre la parentesi, Andrea, perché i conti che lei ha fatto potrebbero filare, naturalmente. Bisogna aspettare il rendiconto finale del commissario per capire quanti soldi lo Stato poi ottiene dall'Italia e dunque da tutta la partita. Ripeto, non si può però dire una parola definitiva su quanto sarebbe costata l'operazione Air France, perché comunque sarebbe costata qualcosa, non era a costo zero, c'era comunque la cassa integrazione, attenzione, non è che fosse a costo zero l'operazione Air France, certamente Air France si accollava tutti i debiti della compagnia. Apre la parentesi, Andrea. Più 300 milioni di prestito ponte. Certo. Posso aprire brevemente l'altro argomento? Ma come è bravissimo, no? Guardi. Allora, io ho sentito il Presidente del Consiglio che dice... ho proposto l'invio dei carabinieri qua, ho proposto l'invio di... Chi decide in Italia l'invio di forze militari all'estero? Beh, il governo. Chi? No, lo decide il Parlamento. Sì, d'accordo, insomma, lo decide il governo, poi ratifica il Parlamento, che non è vero che lo decide il Parlamento, ma lo decide un governo. Poi il Parlamento, essendo un governo espressione di una maggioranza, la maggioranza ratifica una decisione di un governo. Sì, no, per carità, assolutamente, assolutamente. Grazie a lei. Allora, era il 41 bis nel carcere di Cuneo dal mattino, parliamo di Setola, l'intervento prima dell'ascoltatore, ne è uscito grazie a una perizia oculistica che gli diagnosticava una gravissima patologia retinica. Secondo chi l'ha redatta era praticamente cieco. E ora la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per scoprire le complicità e le collusioni che gli hanno consentito di avere una perizia palesemente falsa. Quelle carte arrivate alla Procura di Santa Maria Capovetra hanno fatto sì che Setola venisse trasferito in una clinica riabilitativa a Pavia, agli arresti domiciliari. Fin troppo facile per il boss scappare e tornare in Campania a dettare legge. E dunque l'ascoltatore aveva perfettamente ragione. Qui, insomma, è successo qualcosa di strano, no, Abate? Beh sì, non sarebbe la prima volta. Insomma, la storia delle complicità è lunga rispetto all'argomento mafioso, camorristico e quant'altro. Beh, questa cosa della perizia oculistica che gli diagnosticava una gravissima patologia retinica, era praticamente cieco, è incredibile. D'altra parte tutti abbiamo visto le immagini di Setola catturato dai carabinieri e tutto sembrava tranne cieco, no? Beh sì, tutt'altro che cieco, certo. Speriamo in tempi brevi di vedere una parola chiara su questo. Assolutamente. Allora, sembra però, e volevo da te un giudizio, che una delle prossime campagne del governo, già preannunciata da qualche intervento di Berlusconi, sia quella sui graffitari, sui writers, o quelli che scrivono sui muri, eccetera, eccetera. Berlusconi già l'ha detto diverse volte, sentiamo l'ultima. C'è un'altra cosa che stiamo studiando, c'è un imperversare di graffiti, chiamiamoli col termine nobile, sulle case italiane, che rende molte città più vicine alle città africane che alle città del centro Europa. Il ministro dell'ambiente con altri ministri sta in questi giorni studiando un intervento del governo affinché si elimini questa abitudine che imperversa e che francamente fa delle nostre città qualche cosa di molto lontano da quello che... Vabbè, insomma, Berlusconi si è un po' fissato, Abate, su questa cosa. Oggi, lo sentiremo più avanti, il suo avvocato, nonché parlamentare, Niccolò Ghedini, dice i writers sporcano, i graffitari sporcano, vanno condannati a ripulire i muri, senza condanne penali né condanne pecuniarie, perché dice non avrebbero i soldi per pagare, però vanno condannati a ripulire i muri. C'è una parte della maggioranza, in particolare la Lega, che dice beh no, i muri sono... i libri dei popoli, e dunque è bello vedere e leggere quegli slogan sui muri. Come la pensi? Insomma, lascia il tempo che trova. Innanzitutto c'è un'imprecisione, un'inesattezza nelle parole di Berlusconi, nel senso che il graffitismo non è nato in Africa, ma è nata in una realtà metropolitana come può essere quella americana, insomma New York, Manhattan, primo, e ha dato al mondo grandissime figure. Sempre uno dei più grandi artisti del secondo Novecento, al di là della moltiplicazione della sua immagine, Keith Haring. Ecco, va detto. Il problema riguarda il decoro, la decenza. E allora, da questo punto di vista, devo dire che è un problema legato, incancellabile. Io qui ho una stazione che è stata inaugurata a Roma da Di Pietro in pompa magna ed è già interamente ricoperta di graffiti che aggiungono alla mestizia, diciamo, di questo manufatto architettonico una mancanza di fantasia, perché come certe ceramiche ripetitive di Vietri sul mare, per intenderci, il modulo del graffiti. Ma ineliminabile problema, oppure minacciando sanzioni? No, ineliminabile. Anch'io penso che sia ineliminabile. Una volta scrivevano viva la fica, adesso invece fanno questi tag, diciamo, di varie fogge, punto, incancellabile. Assolutamente, diciamo. Intanto la risoluzione dell'ONU adottata era la 1860 dell'8 di gennaio, in cui si fa un appello a un cessate il fuoco immediato, duraturo e pienamente rispettato. Insomma, come dicevo prima, non mi pare che questa risoluzione poi, almeno nell'immediato, in quei giorni abbia avuto un qualche seguito, e infatti alla fine si è arrivati ad una tregua unilaterale di Israele e in contemporanea anche ad una tregua da parte di Hamas. Comunque la risoluzione della 1860, TG1. Bruxelles, nel 2009 crolla il PIL, aumentano i disoccupati, Francia, Spagna, Italia oltre il 3%. Caso De Magistris, il CSM sospende il procuratore capo di Salerno, Apicella, trasferimento per il PG di Catanzaro, Iannelli. Obama prepara l'inauguration facendo volontariato e ricordando Martin Luther King. Veltroni al TG1 è il ritorno della storia. Gaza, gravissime distruzioni, Israele affretta il ritiro per l'insediamento di Obama. Il ministro degli esteri Frattini porta gli aiuti italiani. Incidenti in montagna, 13 morti in 40 giorni, salvati due alpinisti nelle Marche. L'esperto, mai senza una guida. La moda ricomincia dagli uomini e guarda all'anno che verrà con ottimismo. Della Valle, obiettivo creatività. Bene, sentiamo anche il TG5. Bruxelles rivede al ribasso le stime di crescita dell'economia in tutta Europa, in aumento deficit e disoccupazione. Almunia, ripresa graduale a metà 2009. Gaza, la tregua tiene, l'esercito israeliano si ritira. Frattini domani a Gaza con gli aiuti italiani e stasera a Gerusalemme incontra Tzipi Livni. Domani Obama giura come 44esimo presidente degli Stati Uniti, popolarità alle stelle ma polemiche sui 170 milioni di dollari per i festeggiamenti. Fischi e urla a Napoli al debutto della nuova giunta, Iervolino dimettiti, dure critiche al sindaco sia da destra che da sinistra. All'Aquila 4 studenti delle medie tentano di violentare una compagna, minorenni gli assassini di un marocchino sul lago di Garda, in aumento le baby gang. Credeva di avere vinto al Gratta e Vinci 500 euro, ma erano 500.000, vincita recuperata grazie all'onestà della cassiera di un autogrill. Da domani Obama alla Casa Bianca e io a Mediaset, Piero Chiambretti in studio al TG5 alla vigilia del suo debutto. Va bene, va bene, 24 minuti, mi pare che l'unica cosa interessante di questi titoli, che sono più o meno le notizie che già abbiamo ascoltato durante il nostro giornale radio e durante altri titoli dei telegiornali di questa sera, sia questa del TG5 sull'esordio della nuova giunta Iervolino a Napoli, che non è stato dei più positivi, urla, dimettiti, eccetera, sentiamo. Esclusiva della magistratura. E qui la voce della Iervolino. Andiamo a Napoli, appunto. Andrea, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Un attimo solo, Malaponti, Comitato Pendolari, Messina, Catania, Siracusa, oggi ha fatto avanti e indietro con Palermo, Palermo-Catania, 5 ore per 200 km, l'abbiamo detto prima, dove è arrivato adesso? È arrivato a casa, allora, Malaponti o no? Non ancora, abbiamo superato Guardia Mangano Santa Venerina, fra poco arriveremo a Carrubba. Mancheranno se non altri 12-13 km prima di arrivare finalmente a casa. Dov'è casa sua, ce lo ricorda? Certo. Certo che la bella ricordo. No, ce lo ricorda a noi, no, se lo ricorda lei, certo che se lo ricorda lei. Dove abita lei? Io allora abito a Fiume Freddo di Sicilia, sono circa 40 km da Catania e una sessantina da Messina. Senta, quanto ci mette da Catania per arrivare a Fiume Freddo col treno? Allora, dipende dal tipo di treno, se ho diretto 35 minuti, 40, se invece un locale che le fa tutte, in realtà è intorno ai 50 minuti. Vabbè, insomma, questo non è una cosa impossibile. Sì, però considera 40 chilometri, cioè 50 minuti, 40 chilometri, volendoci considerare sono tanti. Senta, quella linea lì è elettrificata oppure no? Allora, io sono di quelli fortunati perché da Catania fino a Fiume Freddo c'è il raddoppio del binario, da Fiume Freddo fino a Giampilieri, che c'è in provincia di Messina, ci sono 43 chilometri di elettrificato ma senza raddoppio. Consideri che da Fiume Freddo da Taormina ci saranno 15 km, quindi Taormina, parliamo del centro del mondo, ancora vige su un unico binario, ahimè, elettrificato. Senta Malaponti, ma lei è un pozzo di scienza sui treni, quante ore ci passa al mese, diciamo, più o meno? Consideri, mediamente, togliendo i ritardi, circa una mezza al giorno. Ma la macchina no, per carità. In macchina ci ho viaggiato parecchio fino al 96, ma poi ho deciso, vabbè, minuti di ritardo, minuti di ritardo meno, comunque mi rilasso e leggere in macchina, ho il problema del parcheggio, Catania è continuamente un caos, arrivare, io poi lavoro al Palazzo degli Elefanti e quindi dico, devo arrivare proprio al centro della città. Non ha voluto Catania mettere in atto i parcheggi scambiatori, per cui dico il caos su Catania è assicurato. È infernale. E quindi preferisco il treno dal 96. Le faccio sentire i titoli della 7. Lei se li è persi, i titoli dei telegiornali, perché in treno, i titoli della 7. L'Unione Europea lancia l'allarme conti pubblici in Italia. Nel 2009 il rapporto deficit-PIL salirà al 3,8%, ben oltre i parametri di Maastricht. In Europa la recessione farà 3 milioni e mezzo di disoccupati in più. Domani Barack Obama si insedia alla Casa Bianca, alla radio dice sarà una celebrazione di tutto il popolo americano. Poi rende omaggio a Martin Luther King. Due clochard uccisi dal freddo, uno muore a Messina in mezzo alla strada, un altro su una panchina a Milano, dove sono 6 i decessi negli ultimi 2 mesi. Vertice ad Arcore per la vendita di Kakà al Manchester City, poi Galliani vede il padre procuratore dell'asso brasiliano del Milan, Lippi scettico, per me resta, tifosi in pressing su Berlusconi con proteste di piazza. Bene, sentiamo qualche secondo di pubblicità, poi torniamo subito con l'ascoltatore da Napoli, Andrea, che abbiamo interrotto, Michela da Grosseto, Romano da Treviso e altri ancora. Un ascoltatore particolarmente perficace con i messaggi ancora ci dice è la risoluzione 1860, non si può confondere l'astensione col veto, abbiamo capito, ma siccome è stata assolutamente ininfluente, cioè era così sfuggita, e naturalmente chiediamo venia a questo ascoltatore che ci tempesta di messaggi. C'è un'ultima ora che viene dal Brasile. Il portavoce del presidente Lula dice la decisione è una decisione sovrana del Brasile. L'avevamo capito che era una decisione sovrana, però ancora non ci sono in realtà spiegazioni sufficienti da parte del ministro, né il portavoce del ministro, che si chiama Marcelo Baumbach, dice se il presidente risponderà alla lettera inviata da Giorgio Napolitano. Il Brasile ha preso una decisione sovrana e questo l'avevamo capito senza l'ulteriore precisazione del portavoce della presidenza brasiliana, Andrea da Napoli. Eccoci qui, prego. Buonasera, dica. Grazie per l'opportunità. L'argomento, in effetti, sì, molto brevemente, sentivo la discussione relativa alle due Italie riguardo ai mezzi di trasporto, soprattutto i treni, no? Sì. Allora, io quello che mi chiedo, ancora stento a trovare una risposta, è come mai da Napoli in giù c'è il disastro, voglio dire, nella Puglia ad esempio le ferrovie del sud-est che sembrano i treni giocattolo, poi la Salerno-Reggio Calabria, poi i treni in Sicilia, cioè che succede? C'è una maledizione, voglio dire? No, non c'è una maledizione, c'è un misto di questioni storiche, di mala politica, eccetera, eccetera, sarebbe molto lungo. Molto lungo spiegarlo, diciamo non si è mai investito sulla rete infrastrutturale nel sud, su questo non c'è nessun dubbio. I politici dormono, voglio dire, questo non lo so. No, hanno preferito per il sud un altro tipo di sviluppo che non aveva come punto centrale quello delle infrastrutture. Vabbè, ma quanto i meridionali dovranno subire ancora, secondo me? Non è questione di subire, spesso sono stati artefici del loro destino. Era una, sì, una domanda che faccio anche al signor Malaponte, voglio dire. Voglio dire, vittima insomma di questi rallentamenti, queste lentezze, insomma, perché voglio dire la Sicilia. E comunque siamo una nazione, poi continuare ad avere queste disparità chiaramente non fa che non giovare alla nazione tutta, perché voglio dire, fermarsi a Napoli e poi da Napoli in giù non c'è il nulla, è comunque uno svantaggio per tutto il paese, questa è la mia considerazione. La ringrazio, andiamo a Treviso. Romano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Chiamo anch'io per il tema trasporti ferroviari, quindi per la massima solidarietà al mio collega siciliano. Fatalitamente parlavate, ero sulla via Bologna e mi sfrecciava la freccia rossa sulla sinistra e quindi ho pensato di chiamare anch'io per dare la mia esperienza di pendolare ferroviario. In particolare, dalle mie parti, cioè Treviso, molti treni locali sono stati soppressi con una certa quantità di proteste da parte dei pendolari e tra l'altro la provincia di Treviso ha ipotizzato anche l'idea di in qualche maniera entrare con una società nella gestione del servizio ferroviario locale al posto delle ferrovie dello Stato. Devo dire che poi mediamente anche al nord, quando i treni locali funzionano, le velocità medie sono da motorino o poco più. Io spesso mi muovo da Treviso a Parma e per percorrere la distanza di circa 250 km ci impiego 4 ore. Fatti i cambi, fatto tutto, i conti si vuole poco a fare, sono circa 60 km all'ora di media, cosa che si può fare con un normale motorino, insomma. Sì, però Romano, adesso non esageriamo, ci sono alcune città che chiaramente non possono essere connesse direttamente. La questione dei trasporti, in particolare nel Veneto, per carità, si può correggere tutto. Poi lì il problema è anche quanto investe la regione insieme a Trenitalia. Lei mi fa un esempio che però secondo me è sbagliato: da Treviso a Parma, quanto traffico c'è tra Treviso e Parma? Non penso che ci sia questo traffico che necessita di una linea diretta. È evidente che se bisogna cambiare poi qualche ora in più, qualche minuto in più, si spende. La ringrazio Romano. Io saluterei Abate con un commento, se vuole, veloce sulla vicenda Battisti, su cui noi abbiamo puntato molto e che a me sembra... Io ho raccolto una serie di insulti rispetto alla vicenda Battisti perché trovavo assolutamente supponente il personaggio, ecco, una supponenza assoluta, e credo che sia, cioè, condivido coloro che trovano inaccettabile che su Battisti possa essere stato costruito un caso politico, questo sinceramente. E io oltre a questo ho trovato anche assurde le motivazioni per le quali il Brasile nega l'estradizione. Devo dire che finora, per carità, negli ultimi giorni c'è stato qualcosa, il ministro Frattini, il presidente della Camera Fini, non è che si possa fare granché. Credo però che da quando Battisti è stato arrestato, e sono quasi 2 anni credo ormai, tutti i governi italiani, prima quello Prodi e poi quello Berlusconi, secondo me non hanno fatto tantissimo. Questa impressione suffragata anche da diverse fonti, o no? Io mi fermo alla faccia di Battisti, che è una faccia detestabile, sinceramente. Grazie non a Fulvio. Non è un reato, però. No, ecco, appunto. E ha a che fare molto con la natura delle persone. Grazie a Fulvio Abate. Il nostro amico Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Messina, Catania, Siracusa, in viaggio per la Sicilia oggi anche per un'iniziativa della provincia. Per carità, non è che fa Palermo-Catania ogni giorno, credo, Malaponti, no? No. Sarebbe quasi da tortura, quasi da masochismo. Sicuramente. A che punto siamo? E allora, io manca qualche paio di minuti per arrivare a casa, in realtà abbiamo già superato Mascali e quindi subito dopo Mascali c'è la stazione di Fiume Freddo di Sicilia, quindi penso per le 20:20 di essere già in stazione. Senta, quanto c'è qualcuno che recentemente ha fatto qualche cosa in Sicilia per cambiare la situazione delle ferrovie? Io ho l'impressione di no, la situazione allora, l'ultimo atto importante è stato fatto nel 2002 con l'acquisto dei treni di Minuetto, finalmente la Sicilia ha investito in materiale rotabile. I famosi treni Minuetto, cosa sono? Sono dei nuovi treni comprati nuovi finalmente, stiamo contando su 40 nuovi treni, di cui 30 elettrici e 10 diesel, e quindi da questo punto di vista la mia scommessa a livello regionale è stata questa, di cofinanziare l'acquisto di questi treni per avere un ritorno come di ammortamento e di servizi in più, e sono circa 280.000 km di treno fino al 2027 in più. L'altro punto importante, che però è rimasto chiuso al cassetto, è finalmente il piano direttore dei trasporti, i quattro piani attuativi, stradale, aereo, ferroviario e marittimo, che in realtà dal 2004 sono rimasti chiusi in un cassetto. Vabbè, senta, i minuetti, adesso lasciamo perdere le questioni che sono appunto rimaste nel cassetto, perché sarebbe troppo lungo spiegarlo. Questo minuetto che percorso fa? Dov'è attivo questo minuetto, su questo treno? Poi 2002 parliamo, cioè già 7 anni fa. Il 2002 è il protocollo d'intesa, però i minuetti sono stati il primo consegnato nel 2004 e l'ultimo nel 2006, così come da programma di acquisto dal piano attuativo. Sì. I primi minuetti all'epoca in funzione sono entrati sulla punta Rai su Palermo, cioè il servizio aeroporto Palermo come servizio metropolitano. Sì. Successivamente, e sulla Palermo-Catania ci sono? Sulla Palermo Catania abbiamo già oggi il duetto, ma comunque mi confermo che su da Rocca Palumba a Palermo ci sono i duetto. Va bene, Vano Ponti. 20 e 19, andiamo in provincia di Lecco. Emanuela, buonasera. Buonasera. Mi riferivo al discorso dell'Alitalia, no? Sì. Allora, qua purtroppo adesso è passato tanto tempo che allora c'è una gincana di gente che dice sono state malinterpretate, no, non c'era. L'offerta c'era. E soltanto che Air France aveva preteso, dato che il Prodi era caduto, che il governo nuovo avallasse questa offerta. Poi naturalmente ci sono messi anche i sindacati, però in primis è stato Berlusconi. No, veramente in primis i sindacati e poi Berlusconi. Diciamo c'è stato un combinato disposto. A pari merito. Poi Micichè, io piuttosto che Micichè, i conti di questo signore Micichè, preferisco credere a Tito Boeri da una parte, che ha fatto proprio Tito Boeri l'economista, sì, che ha parlato di una cifra colossale che andrà a cadere sulla nostra testa. E poi ai giornali francesi, quando Air France ha firmato con CAI, titolava proprio come una voce unica Merci Silvio, perché dopo 7 mesi pagavano un quarto di quello che avrebbero pagato, diciamo, 4 volte tanto 8 mesi fa. Tutto questo volevo dire io. La ringrazio, guardi, adesso mi fa ricordare una cosa, che non solo da Tito Boeri, che è editorialista di Repubblica ed economista, sono venuti alcuni conti sulla vicenda all'Italia, dunque una voce molto critica, eccetera, ma anche da alcuni economisti dell'Istituto Bruno Leoni, che magari chiameremo domani. Uno degli ultimi prodotti dell'Istituto Bruno Leoni è proprio uno studio sulla vicenda all'Italia e su quanto ci è costata la vicenda all'Italia. Dove andiamo? Daniele da Roma, poi Nicola da Matera e poi Tommaso, provincia di Sassari, altri ancora. L'onorevole Nicolò Ghedini, buonasera onorevole Ghedini. Buonasera a lei. Allora, alcuni dicono che la questione dei graffitari che imbrattano le città sia ineliminabile, cioè ci dobbiamo convivere come si convive con altri problemi. Lei invece pensa di no, dice che sporcano e vanno condannati, però non penalmente, ma a ripulire i muri. Come si può arrivare a un risultato di questo tipo? Guardi, ci sono molti fenomeni con cui siamo costretti a convivere, anche la delinquenza è purtroppo un fenomeno con cui siamo costretti a convivere, ma non per questo ci dobbiamo rassegnare e quindi dobbiamo cercare di evitare che le nostre città siano devastate malamente da scritte sui muri, da cose che rovinano il paesaggio cittadino. Poi ovviamente ci sono anche dei graffitari che fanno delle opere d'arte in determinati contesti che addirittura migliorano la vista urbana, ma mediamente sono dei segnacci che rovinano. Senta, oggi un articolo sulla stampa, l'articolista esordisce così, diceva Flaiano la questione è grave ma non è seria, appunto perché sicuramente, adesso non voglio sminuirla, non è certamente tra le prime cose in cima all'agenda del governo, però pure su questo si litiga, si deve arrivare a litigare pure su questo. Pare che alcuni della maggioranza dicano no, insomma le scritte sui muri sono un simbolo di libertà, eccetera, rievocando cose storiche del passato. Guardi, non è che si litighi, c'è una dialettica, come spesso accade, anche sulle piccole cose. Le scritte sui muri sono una banalità, se vogliamo, ma però l'ordine in un paese passa anche attraverso le piccole cose. A New York sono riusciti a contenere il crimine proprio seguendo quelle che sembravano delle banalità. Io credo che i cittadini vogliono avere delle città pulite, non mi pare una cosa strana. Però no sanzione penale, dice lei. Ma guardi, il penale deve essere l'estrema ratio, io non credo che sia il caso di mettere in carcere chi scrive su un muro. Certamente se uno disturba un monumento storico di grandissimo valore è cosa diversa. Beh, certo. Ma se no, se si tratta di imbrattare un muro di un condominio, a me pare che la cosa migliore sia quella di farglielo ripulire. Neanche le multe, perché lei dice, sono inefficaci, nessuno le pagherebbe, sarebbe molto complicato riscuoterle. Assolutamente sì. La ringrazio, buona serata. Grazie a lei, buona 20 serata. E 24. Questo succede nel governo e dintorni, dove si discute anche dei writers. È vero, dice Ghedini in questa intervista, avete sentito poco fa, la tensione c'è e francamente per me è abbastanza inspiegabile, anche per noi inspiegabile. Andiamo a capire innanzitutto da Malaponti se è sceso dal treno. Malaponti, è sceso? Io già sono sceso, mi sto per raggiungere la mia macchina per rientrare a casa mia. La saluto, Malaponti. Grazie a voi. Auguri e speriamo che la situazione dei treni in Sicilia migliori nei prossimi anni, almeno, se non nei prossimi mesi. 20 e 24 da Roma, Daniele, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, un piacere parlare con lei. Grazie. Io volevo cambiare un po' argomento e parlare di riforma della giustizia, che è un tema che spesso viene riportato sui giornali, poi a volte dimenticato. Guardi, io volevo dire questo, a mio giudizio trovo strano, qui parlo sia da cittadino che da avvocato, che... Daniele, l'ascolto, dica. Mi scusi, eravamo un attimo via la linea. No, trovo strano che nel momento in cui si parla di riforma della giustizia, il primo punto all'ordine del giorno sia quello della separazione delle carriere fra PM e magistratura giudicante. Il male endemico della giustizia italiana, a mio giudizio, è quello della estrema lunghezza dei processi. Io francamente non trovo un nesso di causalità fra la separazione delle carriere e la lunghezza dei processi. No, da questo punto di vista non c'è dubbio, non c'è un nesso di causalità. Assolutamente. E mi viene un piccolo dubbio, siccome nella nostra Costituzione sono previste una serie di immunità, si chiamano guarentigie, per la magistratura giudicante, che sono state estese per legge ordinaria anche ai pubblici ministeri. Io non vorrei, il mio dubbio è questo, che la separazione delle carriere, a volte si parla addirittura di due CSM diversi, sia un modo come un altro per aprire la strada a una riforma dello status dei pubblici ministeri, perché in questo modo basterebbe una leggina per togliere ai pubblici ministeri le guarentigie, le immunità e farli diventare a tutti gli effetti dei funzionari del Ministero della Giustizia che rispondono come direttivi al Ministero della Giustizia e quindi al Presidente del Consiglio, in ultima analisi. Guardi Daniele, in altri paesi, come lei sa benissimo, il rapporto tra l'esecutivo e i giudici, gli istruttori, chiamiamoli così, come si chiamavano un tempo, insomma, quelli che fanno le indagini, i PM sono stretti, non è che sono così lontani come in Italia o separatissimi come in Italia, dunque non è che sarebbe una cosa così scandalosa che ci sia un minimo di collegamento, diciamo. No, questo però in Italia non avverrà, come lei sa benissimo. Ecco, esatto. Perché siamo in Italia, appunto, esattamente. No, ma io non sto dicendo se è giusto o sbagliato, sto dicendo semplicemente che in altri paesi, con un'altra tradizione giuridica, con altre storie, questo rapporto esiste e non è così scandaloso, non sono considerati dei paesi dove c'è una magistratura asservita al potere esecutivo, no? Assolutamente. Cioè, per esempio, lei ritiene che il Parlamento debba dettare, non so, all'inizio di ogni anno quali sono le priorità nell'azione giudiziaria e pensa che i capi dei distretti giudiziari debbano attenersi a questo? Questo non sarebbe una cosa così folle, naturalmente senza entrare nel merito delle singole inchieste, qui... In un paese normale no, non sarebbe assolutamente anormale, anzi sarebbe una cosa buona e giusta. Non siamo, dal punto di vista del rapporto tra politica e magistratura, oggi come oggi, un paese normale. Su questo bisogna purtroppo essere obiettivi. A me farebbe piacere che anche i giornalisti insistessero molto su questo punto, che quando si parla di riforma della giustizia chiedessero alle forze politiche, volta in volta al governo, dice, ma perché la separazione delle carriere? Il vostro obiettivo è forse questo? Potrebbe essere qualcosa su cui battere. Ma sì, in realtà se ne discute da tempo, quelli che sono contro la separazione delle carriere dicono che è il primo passo verso l'asservimento, tra virgolette, dei pubblici ministeri al potere esecutivo. Daniele, la ringrazio molto. Andiamo a Matera da Nicola. Buonasera. Buonasera. Ah, c'è ancora Michela da Grosseto, mi perdonerà, ma ancora qualche minuto. Nicola, dica. Buonasera a lei, grazie per essermi permettermi di intervenire nella prima volta in questa trasmissione. Volevo sottoporre soltanto un mio personalissimo punto di vista che probabilmente contrasta con quello che è stato finora detto in tema di trasporti. Io abito a Matera ed è probabilmente l'unica provincia d'Italia che non è servita dalla ferrovia. Non c'è una stazione a Matera. Non c'è una stazione a Matera. Le confesso che non si sta male, si sta bene. Ho capito, lei però questa cosa me la deve spiegare meglio. La questione degli imam e dei sermoni in italiano. Sentiamo Sky TG24 per un attimo. Ho iniziato a fare la metà lingua araba e la metà lingua italiana perché c'è la comunità musulmana, ci sono che non sanno l'arabo, come del Bangladesh, del Kosovo, di altre etnie che non parlano arabo. Noi siamo. Però il problema è che devono conoscere prima di tutto i luoghi di culto, perché noi troviamo una difficoltà per avere questi luoghi qua. E dopo parliamo per le sermoni. Bene, questione aperta dunque, i sermoni in italiano, la proposta del Presidente della Camera Fini, i titoli del TG2, poi torniamo a Matera da Nicola che ci deve spiegare come mai dice che si vive meglio senza la ferrovia. Domani Obama presidente, svolta storica per l'America, l'appello nel giorno di Martin Luther King, tutto il popolo americano dice Obama unito nel nome di Luther King. Nuova doccia fredda per l'economia europea, peggiorano le previsioni per il 2009, ripresa solo nel 2010, anno difficile anche per l'Italia, ma Bruxelles promuove il piano Tremonti e la ricetta giusta. Gaza, primi aiuti dall'Italia al TG2, appello disperato del padre del soldato Gilad Shalit da 2 anni e mezzo nelle mani di Hamas. Israele chiede il rilascio, dimostrate che è vivo. Vigilanza, si sono dimessi tutti i membri della commissione ad eccezione del presidente Villari e altri 2 commissari. Il presidente del Senato Schifani, paralisi irreversibile. Attentati e minacce, aggirava il carcere duro e dalla cella dava ordini al suo clan in Sicilia, il boss Piddu Madonia, filmati e intercettati, i colloqui con i familiari. Da domani a Napoli il processo a Calciopoli, lo scandalo più clamoroso del calcio italiano. 24 imputati, tra cui Luciano Moggi, centinaia di testimoni, giudici, tutte donne. E inizia domani dunque il processo del secolo sul calcio contro Luciano Moggi and Company a Napoli. Allora Nicola, perché ecco si vive qui meglio senza il treno? È ovviamente un mistero per me, però insomma mi dica. No, le spiego brevemente. Ovviamente la mia opinione è strettamente personale, però le dico che innanzitutto viviamo in una regione che è circondata da una parte dalla Campania e dall'altra dalla Calabria, per cui le lascio immaginare cosa potrebbe essere nel caso in cui ci fosse anche un collegamento ferroviario con queste due regioni, ma questo è irrilevante. Diciamo che la ragione fondamentale è che nella nostra regione hanno speso non so quanti mila miliardi del vecchio conio per cercare di costruire una ferrovia e l'hanno ipotizzata costruendone soltanto un tratto su una zona argillosa di calanchi che ovviamente non ha resistito ed è rimasta bloccata. Per cui tenga anche conto che noi siamo a quasi un'ora neanche da Bari, dove c'è aeroporto e ferrovia, e credo sia lo stesso tempo che normalmente impiega qualunque cittadino di Roma o di Milano per raggiungere l'aeroporto di Nord, da Vinci o la stazione Termini. Insomma. Vabbè, Matera, però Matera è un caso particolare, insomma, Nicola, diciamo. Matera è un caso particolare, cioè, non è... credo caso particolare. Però le dico, io personalmente non avverto tutto questo disagio nel non avere la ferrovia a Matera, ecco. E le dico, no, d'accordo, ripeto, però. Sì, no, non solo un'opinione personale, e questo è naturale perché insomma è lei che sta parlando, però mi sembra anche non è, ecco, il caso emblematico del sud. Nicola, la ringrazio, andiamo dunque a Michela da Grosseto, eccoci qui. Buonasera. Buonasera, dica pure. Buonasera, senta, io volevo intervenire per quanto riguarda, diciamo, la trasmissione di Fazio ieri sera e l'intervento che ha fatto il nostro ministro del tesoro. Sì. Volevo sapere da lei, diciamo, che cosa ne pensa, perché Fazio ha fatto 2 domande, magari che in un certo senso sono quelle che più sente l'opinione pubblica in questo momento, e il ministro non ha risposto fondamentalmente. Su una che cosa? Una è quella dell'Alitalia, come ha detto. Beh, ha risposto, poi si può criticare la risposta, però ha risposto. Sì, però diciamo che ha rigirato un po' la cosa, perché tutti sappiamo come è avvenuta la vicenda d'Italia, e dire che non c'era Air France, dire che non c'era nessun tipo di proposta da parte di Air France per l'acquisto dell'Italia, mi sembra un po' una cosa grossa, perché vuol dire che noi allora ci siamo guardati un altro film, molto probabilmente. Sì, no, Michela, lì la questione è controversa sui tempi e sul ruolo che ha avuto l'entrante governo Berlusconi. Lì ci si possono dare varie interpretazioni, sì, se c'è stato un ruolo. È una vicenda molto complessa, però dire che l'Air France non c'era e che non ha fatto nessun tipo di intervento mi sembra un po' una cosa paradossale. e vedere che, come tutti sanno adesso, che i debiti dell'Alitalia vengono spalmati poi su tutti i cittadini, insomma, questo lo deve sapere, perché comunque lo Stato siamo noi, questo lo, cioè, è una cosa ovvia, insomma. Sì, no, Michela, lì la questione è quanto costa in più rispetto a un'ipotesi che c'era, Air France, che non è arrivata in porto. Molti hanno fatto questa operazione dicendo che rispetto all'operazione Air France, diciamo, il conto è di tra i 3 e i 4 miliardi. Con Air France sarebbe stato diverso il conto per lo Stato, e probabilmente inferiore. Tremonti non è d'accordo e dice: avremmo pagato lo stesso. Questa è la storia. E l'altra cosa era sulla social card, perché comunque anche lì non ha risposto dicendo che negli Stati Uniti o in altri paesi è prevista questa misura. Se è prevista in qualche paese, non vuol dire, al di fuori dell'Italia, non vuol dire che comunque è una proposta giusta. È una cosa giusta, perché comunque è capitato spesso di vedere anche delle persone anziane che magari vanno a fare la spesa o da qualsiasi parte, o anche non anziane, sì. E è un'evidenza di quello che è la loro povertà, e secondo me era... No, io su questo non sono d'accordo, Michela, mi scusi. Probabilmente Tremonti ha un po' sottovalutato tutta la macchina burocratica che si doveva mettere in moto, e sono stati commessi degli errori, il fatto che vengono inviate le carte che non sono cariche, sì, poi si controlla. Comunque, quando dice avranno altri vantaggi queste persone al momento che presentano questa carta, e non ha spiegato però che tipo di vantaggio. No, vabbè, e lì lui dice: si è introdotto un meccanismo, poi questa carta si potrà ricaricare, potrà essere utilizzata per altre cose, questo lo vedremo. Secondo me il lavoro che c'è stato dietro non è stato sufficiente a evitare quello che doveva essere evitato, cioè che una anziana, un signore si recassero presso un supermercato e arrivassero lì con la spesa e non potevano pagare. Questo doveva essere evitato e non è stato evitato. La ringrazio, interventi più brevi perché abbiamo 3 minuti. Allora, Tommaso, provincia di Sassari, 1 minuto per lei, velocemente. Sì, velocemente, visto che si parla, buonasera a tutti, anzi, visto che si parla di ferrovie, volevo segnalare che in Sardegna non soltanto non esistono reti elettrificate, e insomma i treni sono antidiluviani, ma per fare un esempio, una tratta abbastanza breve come l'Olbia-Sassari ci vogliono in media 2 ore e mezzo, e un Olbia-Cagliari, che è una tratta strategica e fondamentale sia per il turismo che per le merci, si impiega più o meno 4 ore e mezza. Volevo segnalare questo. La seconda cosa invece che volevo dire è che si parla tanto giustamente di Alitalia, però attenzione, perché potrebbe capitare qualcosa del genere. Noi qui in Sardegna lo stiamo vivendo, a Meridiana si trova in grosse difficoltà finanziarie, e che in piccolo pare abbia tutti quei tipi di problemi legati ai privilegi, agli stipendi, ai salari, eccetera, sì, eccetera, che hanno diciamo condannato l'Italia. Vedremo anche qui. La ringrazio. Sara da Trento, buonasera Sara. Sì, buonasera. Parlavate della Sicilia, sono velocissima. Faccia la Valsugana da Padova a Trento ci vogliono 4 ore. No, guardi, Padova-Trento, mi perdoni, io l'ho fatta diverse volte, mi risulta che per andare da Padova a Trento ci si metta 2 ore e mezza di treno, in alcuni casi anche 2 ore e 10. No, scusi, se lei fa la via di Verona ci mette 2 ore. Ma ho capito, io no. Valsugana ci mette 4 ore. D'accordo, però se uno deve andare da Padova a Trento, anche vedendo l'orario delle ferrovie dello Stato via internet, fa stazione di partenza Padova, arrivo Trento, ci si mette 2 ore e 10 in alcuni casi, 2 ore e 30 negli altri, per cui insomma questi tra Padova e Trento. Poi se uno vuole partire, è impossibile. Consulti l'orario delle ferrovie dello Stato. Scusi, ci sono 2 linee. Allora, se lei vuole fermarsi a Verona, scendere a Verona, aspettare il treno, ci mette. E se lei vuole fare il diretto della Valsugana, che stanno litigando tutti, sì, per rafforzare quella linea lì, ci si mette 4 ore di orologio. Guardi, io sul treno, sul diretto non lo so, cambiando a Verona, ma qui non siamo all'ufficio informazioni delle ferrovie dello Stato, ci si mette 2 ore e mezza. È vero, ragione lei, adesso ho davanti, forse il diretto non esiste nemmeno, in alcuni casi 3 ore e 37, ma insomma adesso lasciamo perdere questi dettagli, in un caso addirittura 1 ora e 3 quarti, per cui non è come dice lei, non esageriamo, non è, tra Padova e Trento ci si mettono 2 ore e 10. Michele da Rovigo, buonasera. Sì, buonasera, può essere telegrafico, volevo solo puntare il dito sulla cooperazione dei giornalisti, non vi ritengo tali parte della corporazione, ma semplicemente per il discorso di questa crisi che sta colpendo tutti. Qual è la cosa sulla... Il TG2 ha detto che il prossimo anno cremano il 2%, ma però il piano Tremonti va bene. Cioè, ci cercano sempre di indorare la pillola. Cioè, la mia azienda, 400 persone, una piccola azienda, ma in Italia il 95% delle aziende ha meno di 50 dipendenti, di multinazionale americana in Italia, il 20 dicembre ci hanno fatto la cena, ci hanno dato i doni, ci hanno... Non ho capito che c'entrano i giornalisti, Michele, che c'entrano i giornalisti? Non ho capito. Perché non, per esempio, ogni TG dicevate il discorso che ogni giorno pagavamo 2,6 milioni di euro per l'Italia. Perché non dite il nome di ogni azienda che fallisce ogni giorno? Bisognerebbe dire anche questo. Cosa vuole che le dica, Michele? Non è che si può ogni giorno fare l'elenco delle aziende che falliscono, di chi va in cassa integrazione. A proposito dei giornalisti, c'era un'altra cosa di cui volevo parlare, ma ne parliamo domani, perché c'è una cosa che riguarda l'Impigi e la casta dei giornalisti. Ma ne parliamo domani. Ciao, 18:30 l'appuntamento con la Zanzara domani sera.